مضي وبلادي قلبي وفؤادي من هالمجد من هالمجد من هالمجد مجد مجد عاشت عربية حرة أبي في ظليكم قارون. Buongiorno Palestina. Anche oggi, come ogni mercoledì, affrontiamo il problema del conflitto palestinese. Questa volta, a differenza delle altre volte in cui abbiamo parlato molto dell'attualità, parleremo dei problemi e affronteremo, diciamo, un po' più la storia giuridica di Israele e della Palestina. Con Piero e con, naturalmente, con Claudio. Ciao Piero, ciao Claudio. Sì, grazie Gianna, buongiorno a tutti e a tutte. Oggi, appunto, come ha detto Gianna, mi sembra importante approfondire un po' di più quelli che sono gli antefatti della nascita dello Stato di Israele e i suoi attuali comportamenti, la sua attuale politica pulizia etnica, che abbiamo anche nelle scorse puntate sono state ben rappresentate con la descrizione di distruzioni di case, di distruzioni di terre, appropriazione delle sorgenti d'acqua e così via. Mi sembra importante questo perché bisogna capire che la cosa non è nata, come sembra tutta la questione israelo-palestinese, come sembra dalle descrizioni e dai comportamenti dei media e anche dei nostri governanti. Ma diciamo che la questione è oggi aperta sul piano internazionale, sembra semplicissima da un punto di vista giuridico, storico e morale, e invece sembra difficilissima a risolvere sul piano pratico. Cioè, tu ci vuoi parlare degli antefatti in qualche maniera. Ecco, da dove gli antefatti, da dove partono? Cioè, da quale epoca? Allora, gli antefatti partono da un'epoca abbastanza superata, passata, direi dalla fine del 1800, dal 1897, con il congresso che ha fondato il sionismo, cioè un congresso da cui è nato un'ideologia, l'ideologia sionista, che puntava alla nazionalizzazione e quindi alla nascita finale dello Stato israeliano, tutto fondato su un messaggio, antico messaggio biblico della Eretz Israel. Però prima di approfondire questo aspetto, vorrei risalire agli anni a metà del 1900, per esempio, sulle considerazioni che quando questi ebrei cominciarono ad arrivare in Palestina, perché naturalmente subivano oppressioni in Europa, soprattutto dall'Europa dell'Est, quindi cominciarono a migrare in Palestina, ma devo premettere che c'erano già gli ebrei, alcuni ebrei in Palestina, ma erano la minoranza e vivevano tranquillamente in accordo con le popolazioni locali, no? Ecco, quindi di lì poi, come dirò dopo, è nato tutta una vicenda, parleremo del mandato britannico, ma vorrei questa vicenda vorrei approfondirla dopo, no? Ecco, allora tu ci stai dicendo che quindi ci stai ricordando che c'è una differenza tra ebrei sefarditi e aschenazi, cioè gli aschenazi, quelli che arrivano dall'Europa e hanno questa carica di nazionalismo, e invece i sefarditi, che erano ebrei locali, i quali invece erano assimilati anche alla cultura araba. Volevo dire, quindi è un problema di immigrazione. Ci parlerai di questa immigrazione del 1938, più o meno, il periodo appunto in cui gli ebrei erano perseguitati in Europa. Però, ecco, io vorrei fare una domanda, io sugli Ashkenazi. Se ce lo puoi spiegare meglio. Allora, gli Ashkenazi sono gli ebrei, quelli che parlavano Yiddish, cioè gli ebrei tedeschi, polacchi, russi, che hanno dato luogo a una grande letteratura, a una grande cultura, a una grande musica, che erano sostanzialmente degli europei. Ecco, Gianna parlava ora di immigrazione. Ecco, direi che non si è trattata di una immigrazione, almeno come la intendiamo oggi, si è trattata di un'invasione. Meglio forse Piero ci chiarisce questo punto. Esattamente, infatti posso subito affrontare l'argomento iniziale e dire che dopo appunto la nascita di questo del sionismo, diciamo che il fondatore di questa ideologia fu appunto un personaggio polacco che si chiamava Theodor Herzl. E fu la sua decisione di creare questo Stato, che poi vedremo che doveva essere un punto di riferimento naturalmente in Palestina, fu all'inizio ostacolata da altri personaggi sionisti, però vinse poi la teoria e la proposta di Herzl. Perché si rivendicava il diritto del popolo ebraico di ritornare sulla terra promessa che aveva visto in un certo periodo della storia la nascita dello stato, di uno stato ebraico che andava dal 1010. Dal 1010 avanti Cristo fino al 587 avanti Cristo, no? In pratica, in cui ci fu un governo ebraico con un regno di Davide e Gerusalemme capitale di questo. Quindi per un periodo limitato in termini storici, cioè non è che gli ebrei vengano tutti da lì e che siano sempre stati dominatori di quella che è la Palestina. Lo Stato ebraico antico fu solamente per un numero limitato di anni. Teniamone ben conto questo, perché questo è fondamentale anche sul piano storico e sul piano anche in termini religiosi. Infatti, quello che dici è così vero che rapidamente posso dare un accenno a quella che è stata la storia cronologica della Palestina, visto che se ne sta parlando, e quindi alla domanda: esisteva un diritto degli ebrei sul territorio palestinese? Questo è il primo argomento, no? Che dobbiamo diciamo parlare se vogliamo parlare degli antefatti. Degli antefatti. È chiaro che oggi lo Stato israeliano è perfettamente legittimo, legalizzato, perché è oltre 70 anni che è stato riconosciuto, almeno fino al 1967. Vedremo che successivamente, invece, l'occupazione dei territori dopo la guerra del 67 non costituisce elemento di legittimità, perché non è riconosciuto da nessun consesso internazionale e tantomeno dalle Nazioni Unite. Però torniamo al discorso precedente. Si può accampare un diritto sul territorio palestinese perché dal 1010, scusate, al 587 c'è stato il regno di Davide con Gerusalemme capitale? Beh, è come dire che i romani potrebbero accampare diritto sulla Francia perché in un certo periodo della storia l'hanno governata, l'hanno occupata e hanno dominato in quella zona. Teniamo presente che facendo una rapida storia appunto di questa cronologia, del fatto storico, della storia cronologica, scusate, giro di parole, della Palestina, dal 1800 al 1250 abbiamo avuto una fase mitologico-preistorica. Dal 1250 al 1010 avanti Cristo c'erano delle popolazioni medio orientali come i Canazei e i Filistei. C'è stato poi il periodo 1010-587 del governo ebraico sulla Palestina, quindi si è creata Eretz Israele. Dal 587 sono arrivati i persiani che hanno cacciato il popolo ebraico che viveva lì fino al 333 a.C. Dopodiché sono intervenuti in quella zona, i greco-macedoni fino al 125 e via, e poi con gli asmonei fino al 64, che sono però un gruppo ebraico, gli asmonei, cacciati poi dai romani dal 64 avanti Cristo al 395 dopo Cristo. È nata poi il periodo bizantino, e dal 700 al 1516 ci sono stati arabi musulmani. Dopodiché i turco-ottomani hanno occupato, oltre alla Palestina, una gran parte del territorio medio orientale e africano dal 1516 fino al fatidico 1917, quando è intervenuto il mandato britannico dopo la sconfitta appunto dell'impero ottomano. Questa è la storia, quindi se si volesse vedere, se si volesse andare per numero di anni, gli arabi musulmani sono quelli che hanno dominato e sono stati presenti in quella regione per più tempo di tutti gli altri popoli. Quindi mi sembra che questo sia indicativo, non si può accampare questo diritto da parte. Facciamo un breve intervallo musicale e poi riprendiamo invece sugli aspetti più recenti. Allora, Piero, andiamo avanti. Allora, detto questo, sul diritto, quale era il diritto degli ebrei sul territorio palestinese, e abbiamo visto che non si può accampare un diritto basandosi su un periodo storico ormai passato, cioè dal 1010 al 587 avanti Cristo. Ecco, ritornerei appunto al 1917, appunto, no? Quando l'impero turco-ottomano è stato sconfitto e gli inglesi hanno avuto il mandato su quel territorio. Perché hanno avuto il mandato? Perché chiaramente si erano spartiti col fatto che la grande rivoluzione industriale di fine 800 prevedeva l'allargamento delle potenze occidentali europee in territori magari in cui non viveva altre popolazioni, o se c'erano le popolazioni erano considerate popolazioni incivili e quindi da poter tranquillamente colonizzare per gli obiettivi economici delle potenze occidentali. Cioè, è il colonialismo del 1800 e della prima metà del 1900. È così, eh? Certo, il colonialismo è nato appunto perché dietro uno slogan, che è quello poi che ha consentito ai sionisti di arrivare in Palestina, diamo ad un popolo senza terra la terra. Quindi, la terra nullius, una terra senza popolo, per un popolo senza terra, questo era lo slogan esatto. Per ritornare ai palestinesi, questo era un po', diciamo, l'obiettivo, no? La finalità delle invasioni coloniali nelle zone africane, soprattutto. Però, per entrare nello specifico della Palestina, i sionisti puntavano alla creazione di una grande Israele, la cosiddetta Eretz Israele, che è la denominazione della Palestina nella regione ebraica. E era un luogo di pellegrinaggio religioso che, diciamo, era stato da secoli un luogo di pellegrinaggio religioso, ma mai si era pensato a un futuro stato laico fino a quel periodo. La tradizione diceva che gli ebrei, e lo dice ancora oggi, no? Gli ebrei sono ad aspettare ancora la venuta del Messia, promessa alla fine dei tempi, no? Prima di poter tornare a Eretz Israele. Tant'è vero che oggi ci sono dei gruppi di obbedienti servi di Dio, come loro si definiscono, ebrei ultraortodossi, che sono assolutamente antisionisti, perché vedono nella formazione dello Stato israeliano un tradimento della Torah ebraica. Ecco, per portare a compimento questo progetto, rivendicavano, gli ideologi sionisti, rivendicavano il territorio biblico e lo ricreavano, cioè trasformavano quello che era un messaggio biblico in un messaggio politico. Quindi cercato di sempre in tutti questi anni fino ad oggi, e oggi siamo arrivati al culmine proprio di questo progetto, di ricreare la grande Israele biblica nel territorio che Dio aveva loro assegnato. Perché nella tradizione ebraica il Messia dovrebbe arrivare e il popolo ebraico tornare in Israele in pace, con un'azione di pace, perché il Messia dovrebbe essere un portatore di pace, non un portatore di guerra, come è stato infatti la creazione dello Stato di Israele, che ha creato una guerra dopo l'altra. C'è un libro a questo proposito di Hart, un giornalista americano, che si chiama proprio Il falso messia, in cui viene descritto in modo molto dettagliato come si sono svolti i fatti nel caso di Israele. Avanti. Esattamente, è proprio questo la grande contraddizione, cioè si è voluto sdoganare un mito religioso e quindi una credenza, una tradizione religiosa tipica della Torah e quindi della Torah ebraica e caricarla di un significato politico che non ha, perché giustamente il Dio degli ebrei, che poi diventerà successivamente il Dio dei cristiani, è sempre il solito Dio, no? Anche Gesù Cristo venne sulla terra successivamente e diceva che gli ultimi saranno i primi. Cioè il discorso del popolo eletto è un discorso che vale in quanto la scelta di Dio è quella di portare avanti gli ultimi, ma non solo gli ebrei. Gli eletti sono tutti poveri, tutti gli ultimi. Tant'è vero che nella Torah c'è scritto che il principio fondamentale della religione ebraica è quella dell'accoglienza, è quella della solidarietà, della giustizia verso tutti i popoli. E questo è, quindi c'è stato un tradimento assolutamente evidente da parte della politica dei governi israeliani. Allora, in questo consiste, quello che viene chiamato l'universalismo della religione ebraica. Esattamente, perché la religione ebraica è universale in quanto cerca, appunto, nei suoi principi fondamentali, di dare giustizia a tutti gli uomini allo stesso pari. Quindi non si può andare in un territorio, cacciare quelli che ci sono, le persone che ci sono, perché Dio ti ha ordinato di farlo, perché tu sei un eletto. Questo è un tradimento proprio della Torah ebraica. E direi questo per continuare, come hanno fatto questi sionisti? Sono arrivati là, hanno cominciato a padronirsi della terra, la Palestina per loro era occupata da stranieri o addirittura era occupata da nessuno, perché il popolo palestinese non era considerato un popolo di umani, ma poco più che bestie, incivili, terroristi, perché si opponevano naturalmente a questo continuo arrivo, no, di ebrei dopo il 1917. Poi vedremo che cosa diceva, qual era la dichiarazione da cui è partito tutto questo. E bisognava riprenderne possesso. Stranieri, chi erano gli stranieri? Tutti i non ebrei che avevano vissuto in Palestina dal periodo romano, perché dal periodo romano qualcuno c'era rimasto in Palestina. E quando vi arrivarono la prima volta nel 1882, non trovarono una terra vuota, ma trovarono una terra con delle persone. Però queste persone erano considerate, cioè i palestinesi nativi, no? E residenti in quella zona, che là vivevano, per loro erano considerati invisibili, sostanzialmente invisibili. Oppure facevano parte di quelle avversità naturali, le pietre su una strada che vanno rimosse, che devono essere anche essi rimossi e allontanati per far posto a questo popolo eletto che arrivava in massa dalle persecuzioni subite soprattutto nell'Europa orientale. Ecco, niente allora si può dire nelle pietre né i palestinesi dovevano essere di ostacolo alla redenzione nazionale di questo popolo nella terra ambita dal movimento sionista. E ora, se non hai domande precise, vorrei a questo proposito leggere una dichiarazione, quella di Mahatma Gandhi nel 1938. Interessante, e devo dire che insomma il tradimento è stato sotto gli occhi di tutti, e più che evidente, con stermini, distruzioni di villaggi, sostituzioni, e quindi qui forse Dio c'entra un po' poco. Ma perché ci sono i due concetti di popolo eletto, no? C'è il popolo eletto come popolo che ha maggiori doveri verso il Dio e verso gli altri popoli e verso l'altra gente, e il concetto di popolo eletto come popolo superiore agli altri, cioè che è il concetto poi degli ariani, degli nazisti, cioè della razza padrona. E questo è molto presente oggi in Israele. È tanto presente che l'anno scorso è stato fatto, nel 2018, a marzo, quella famosa legge sullo Stato-nazione del popolo ebraico, che dà evidentemente a questo punto come si potrebbe dire, un calcio definitivo, chiamiamolo pure così, alla famosa teoria Israele unico Stato democratico del Medio Oriente. Direi che siamo arrivati a uno stato etnocratico a tutti gli effetti per dichiarazione dei loro stessi politici, insomma, no? Degli stessi governanti. Questo è solo per gli ebrei. Chi vorrà vivere lì dovrà adeguarsi alle leggi del popolo, che il popolo ebraico promulgherà. Non mi pare un esempio lampante di democrazia, no? Che vuol dire che tutti i cittadini che vivono hanno gli stessi diritti, indipendentemente dal credo, dalla religione, eccetera. A questo proposito, il Mahatma Gandhi, come ti dicevo prima, vorrei leggere questa del 28 gennaio, questa dichiarazione, questa considerazione che lui fece molto brevemente. La Palestina appartiene agli arabi palestinesi come l'Inghilterra agli inglesi e la Francia ai francesi. Non mi pare giusta la rivendicazione degli ebrei di un territorio nazionale. A sostegno di questa rivendicazione di avere la Palestina come loro Stato, viene invocata la Bibbia. Non può essere giustificato ciò che sta avvenendo oggi in Palestina da nessun principio morale. Sarebbe un crimine contro l'umanità, parla Gandhi nel 1938, quando ormai le attività delle bande sioniste avevano prodotto la fuga, la cacciata di 350.000 persone dai propri villaggi e la distruzione di 500 villaggi. Parla Gandhi, che conosceva questi fatti. Allora, diceva appunto Gandhi, è un crimine contro l'umanità costringere i palestinesi a restituire in parte o interamente la Palestina agli ebrei come il loro territorio nazionale. La cosa corretta è pretendere un giusto trattamento per gli ebrei dovunque siano nati o si trovino a lottare per questo. La Palestina biblica non è un'entità geografica, si deve trovare nei loro cuori e è ingiusto comunque entrare in essa facendosi scudo dei fucili. Sappiamo come Gandhi poi, no, conduceva la sua lotta non violenta contro il regime colonialista degli inglesi. Questi criteri gandhiani sono anche assunti in forme di lotta attuali da parte del popolo palestinese, mi pare. Certamente, infatti, la fase, diciamo, della lotta armata, che ha visto anche, non dimentichiamocelo, non si può negare, atti di terrorismo contro civili, soprattutto nella seconda intifada, da parte del gruppo di Hamas di Gaza. Però, ecco, diciamo, oggi naturalmente no, non esiste più questa fase. Oggi sono nati in Palestina dei comitati di resistenza non violenta che fanno marce tutti i venerdì con le loro bandiere per rivendicare il diritto di vivere, il diritto di lavorare, il diritto di avere la propria famiglia e quindi di avere dei rapporti con gli altri e potersi spostare tranquillamente. In pratica il diritto come tutti gli esseri umani, il diritto di avere una vita libera e dignitosa, cosa che non avviene. E con le citazioni di Gandhi e le parole di Piero, finiamo anche questa trasmissione. Grazie dell'ascolto, vi ringraziamo e vi diamo appuntamento per il prossimo mercoledì.